scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato, se non per uscire letteralmente dall'inferno. E questa è la mia testimonianza, le mie lettere dall'inferno, scritte col sangue, per voi e per me. M3 2012.